fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. E ci siamo, interveniamo in diretta con la prima intervista della serata. Senzio, in compagnia di questi due ragazzi, sì, giusto? Ci siamo all'addio al celibato di Marchetto. Marchetto? Marchetto, sì. Marchetto, perché Marchetto? Perché si chiama Marco. Ah, pensavo per avere una sua è carta. Piccolino ma fa grandi numeri questa sera. Ah, stasera, ok, ok, ecco. Sul piccolino è la dimensione di altezza, giusto? Sì, perché diciamo di sì, dai. Ecco, le amiche da casa si staranno chiedendo perché lo chiamano Marchetto. No, no, non è per quello. Ah, no, non è per quello, che okay, smentite, va bene. Ma diciamo anche i vostri di nomi che... David. Nicola. David e Nicola, da dove? Padova. Padova. Voi siete single, fidanzati? Fidanzati, sì. Fidanzati. Vedo sempre quella gioia immensa nel dichiarare in pubblico che il maschio è fidanzato, ecco. Fidanzati è una parola grossa, però. Parola grossa? Ma perché è un periodaccio? No, avete dei contratti a chiamata? Abbiamo la ragazza, però fidanzati è un impegno. Guarda che vi ascolta, guarda che potrebbe sentirvi. Noi ci quindi... proviamo con tutti noi stessi. Ah, con tutti voi stessi, a fidanzarvi ma non riuscite? Cioè avete questa, questa resistenza al fidanzamento che dura ormai da quanti anni? Per quanto mi riguarda, 4. 4 anni di resistenza al fidanzamento. Troppo, David. Piace questa cosa, sarà contenta anche lei, tra l'altro. Sì, contentissima. Contentissima, sì. Immagino. Ma secondo voi perché il maschio è così, come dire, resistente a questa cosa, mentre la donna... Beh, ma non è detto che sia il maschio a non volere. Ah, dici che lei, allora? No, è nel mio caso... Nel mio caso sì, forse. Però è una cosa comune, secondo me. Però io conosco altri casi, tipo c'è qualcuno là fuori che secondo me è ancora tipo il matrimonio lo voleva lui, lei boh. Ah, davvero? È stata convinta. È stata convinta, sì, da lui. Primo caso, uno dei pochi casi al mondo dove è il maschio, sì, che sì, cerca, sì, di convincere la donna. Ce l'avete allora? Avete voi questa casistica? Sì, però adesso non lo vedo, però se... Ma qual era? Quello che era arrampicato sul tavolo? Era... No, beh, quello in realtà si sposa fra una quanto? Un mese? Chi? Marco. Luglio, agosto, scusami, agosto. Agosto. Ma come l'avete vestito che adesso... Vecchia signora. Ah, in realtà è vestito da una nostra amica, ma è meglio che non lo diciamo troppo forte. Quindi non possiamo nominare la vostra amica, no, però... Assolutamente no. Però chi la conosce a Padova avrà già capito, però, immagino. Potrebbe essere. Assomiglia ad Anna Pannocchia, non so se conosci. Anna Pannocchia mi sfugge. È un personaggio di Macio Capatonda. Mi manca, però gli appassionati, gli amanti di lui, ecco, lo riconosce. Ma comunque era quella con la terza gamba anche, giusto? Esatto, sì, sì, sì. Ecco, no, è importante. Terza gamba scura. Sì, ha lasciato il segno anche la riga per tutto il locale praticamente, perché... Fantastico, siete stati voi gli ideatori di questo vestito? No, perché in realtà il testimone era quello che ci mandava. A quello che mi salutava con un dito solo? È un saluto tipico padovano quello? Esatto. Perché alzare tutte e 5 le dita quando ne basta una? Siamo pigri a Padova. Esatto, quindi ne basta una, la più lungo tra l'altro, ecco, che si vede, esatto, giusto, come esatto. Dito. Lui è scioccato dal vostro amico. Lo stiamo perdendo. Ciz non vuole parlare perché lui viene chiamato Ciz. Perché Ciz? Il suo cognome. Prova a dire qual è il tuo cognome. Il mio cognome è quello che è. Basta così. È quello che è, ecco. Shinyan. Cos'è che è? Ti ricordo che siamo in diretta. Shinyan. Ti ricordo che siamo in diretta. Lo contattano su Facebook. Secondo te come si scrive Shinyan? Non si scrive. Immagino in prima elementare che è stato bocciato 10 volte per... Solo per il cognome, per imparare a scriverlo. Esatto. Cioè, non potevano chiamarti, che ne so, Rossi, che così. Ma infatti mi hanno dato 1000 soprannomi. E quello ultimo è Ciz, il Ciz. Pare, sì. E il Ciz. Se sarà l'ultimo. Sarà l'ultimo? Vuoi fare un elenco? Chi lo sa? Sarà l'ultimo. Chi lo sa? Tu lo sai? No, non lo so. Ma, ma sarà l'ultimo. Tu hai un soprannome siamo invece? No, ho il soprannome. No. Sì, DVD. DVD? Per la sua passione. No, è il mio codice fiscale. È DVD, VM18? Così? È quello il suo codice fiscale? Quello potrebbe essere qualcosa che conosce meglio un nostro amico che si chiama sempre con tre lettere. Sempre con tre lettere. Jepp. Il Jepp è appassionato di DVD di VM18. Sì, sì. Immaginavo, ecco. Ma ne sa più di tutti. Cioè, tanto è un ragazzo che è il primo caso al mondo di ragazzo col morbo di Parkinson a 18 anni praticamente. Cioè, o una avambroccia potente. Ha fatto anche la controfigura a braccio di ferro, secondo me. Sì, esatto. giusto. Confermi, Ciz? Confermo. No, è un po' in imbarazzo. Ogni tanto lo perdiamo, ogni tanto il Ciz mi va in cortocircuito. Bisogna rianimarlo. Cos'hai visto? Ah, esatto, ecco, un altro saluto. Questo è padovano, no? No, in realtà, però boh. Così, ogni tanto ci salutano, sì. È bello così, no? Sì. Sicuramente viene da un paese molto felice. Ah, sì, perché lo vedo molto felice in questo momento. Visto il saluto anche, che sempre con la mano, si saluta sempre in quel modo, però esatto. Le dita sono piegate, e giusto? Nel saluto che no, mi ha fatto. No, ma lui secondo me era, cioè, anche se non lo conoscevamo, era, cioè, ci voleva più bene di quello che ci ha salutato prima, che conoscevamo. Anche secondo me. Anche secondo me vi stima di più questo che quello, esatto, di prima. Che bello. Ma voi siete un gruppo di amici, giocate a calcio, una squadra? Siamo un gruppo di amici ormai da centinaia di anni. Centinaia di anni? Sì, siamo cresciuti assieme, giovinezza assieme, pubertà assieme, qualunque cosa assieme. Lui, cioè, ha sottolineato la pubertà, ci teneva, cioè, ci teneva molto. Non ha detto niente fino adesso, ma sulla pubertà sulla pubertà ha voluto proprio sottolinearlo, proprio. C'è anche quella R un po' così, quasi. Esatto, puber. Sì, bello questo racconto, mi piace. Quindi tutto assieme da una vita? Yes. Abbastanza, sì dai. Allora, tu non vedi la sua faccia, ma la vedrai nella webcam. È un po' triste quando l'ha detto, Cioè, tipo, tutta una vita assieme. Vabbè, mi tocca. Pazienza, così. Avete un saluto in padovano da farmi? Perché il nostro tempo sta per scadere, non... Potrebbe essere Agona Senfemo Cincin. Neanche Cinz l'ha capita, tra l'altro. Si è spaventato. Perché secondo te Shainian è padovano? La sognata di notte questa. Se l'è preparato, sapeva che è io. È una roba che i padovani sanno. I padovani toc la sanno, quindi basta dire. Me lo ripeti? Agona Sen Femo Cincin. Ah, siamo, cioè, vuol dire in realtà è una mezza canzone anche. Che c'è una canzone, c'è Understand o Machinin o Understand o Machin, non è quella, no? Comunque sì vuol dire, cavolo, c'ho una sete, sì, facciamo cin cin. Ah, perfetto. Preoccupato, ti vedo preoccupatissimo. Non devi pagare tu. Ti preoccupo per lui, sai. In realtà è una citazione dei Ruma Terra. Non conosci i Ruma Terra? Ma lui è un pozzo di cultura, Già prima Maccio Capotondo, adesso i Ruma Terra. Perché mancano pochi minuti, se no potremmo elencarti di chi stiamo parlando. Stai parlando con una persona a caso. Lo vedi così sciolto al microfono e c'è un motivo. Aspetta, fa questo mestiere allora? No. Dai, scopriamo qualcosa in più di te, proprio ancora un minuto lo possiamo... Chitarrafacile.com. Chitarra facile, allora è vero, allora ai nostri ascoltatori, se volete scoprire qualcosa di più di... Ciz. No, Ciz è lui. No, anche no. No, di David. Di David, andate su chitarrafacile.com e capirete di più di questo personaggio misterioso che abbiamo questa sera, che si sta rivelando col contagocce, giusto? Sì. Così. Mentre Ciz invece ha parlato di sé in maniera incredibile. Sappiamo tutto di Ciz, c'è quasi stufato. Sappiamo tutto sul periodo della pubertà di Ciz. Purtroppo non c'è Ciz.com. Ciz.com potremmo farlo prossimamente? Ti Ciz? Non ti Ciz? È una persona riservata, è per questo che è venuta in diretta in radio. Sì, ci teneva. Mi hanno trascinato. L'abbiamo portato dentro con l'idea di fare una fotografia. Si è trovato a parlare di se stesso e della pubertà, che è un periodo particolare che gli è rimasto dentro. È rimasto impresso. Impresso proprio per tutta la vita. Cioè, ce l'hai ancora addosso la pubertà, secondo me. Che fai? Ti vedi? Magari. Magari. Intanto quello è vostro, che cerca di vendervi il telefonino. Sì, purtroppo sì. Ah, sì. C'è scritto brrr. Che è il verso tipico di Ciz. Ah, perché Ciz parla così, fa brrr. Sì, però questa cosa non la devi pubblicare. È un ritardato in diretta. Ormai in diretta. Quindi va bene, quindi Ciz fa brrr. Ma con la bocca o con un'altra parte del corpo? No, con la bocca. Con la bocca, ok, che è importante capire. Che siccome ha una R particolare. Eh sì, infatti sulla pubertà. È il suo richiamo. Sì, grande Ciz. Niente ragazzi, il tempo è già passato e ripassato, infatti. Però i nostri ascoltatori sicuramente sono rimasti entusiasti nel sentire i racconti del Ciz. Grazie mille. Va bene, salutiamo David e, giusto? Ciao e auguri, cioè nel senso, buon matrimonio a Marchetto, dato che siamo qua per lui. Esatto, giustamente, al Marchetto. Ricordiamo il tuo sito? Chitarrafacile.com. Poi abbiamo... chitarrafacile.com. No, non era cheats.com. No, è chitarrafacile.com. Cheats.com, ecco, cliccate, giusto? E saluti a Marchetto anche da Sandrino, che sono io. Ok. Grazie, che somiglio a, a Mazzoli. Ecco, lo sapevo. E Fargetta, perché Mazzoli è il socio di Fargetta. Di Fargetta. E io sono il socio di loro, che però non conto niente. Ok. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.